In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Gesù vuole stare in mezzo ai bambini e sicuramente chi portava i bambini a Gesù saranno state le loro mamme. E le mamme che cosa volevano? Volevano che Gesù imponesse ma le mani sui loro bambini e pregasse per i loro bambini. E che cos'è questo gesto di imporre le mani? È un gesto di benedizione, un gesto di raccomandazione, un gesto di dare un'attenzione particolare a questi bambini. E invece i discepoli cercano di allontanare i bambini perché? Perché sono condizionati dalla mentalità del tempo e per la mentalità del tempo i bambini non contavano nulla, non avevano la dignità della persona umana che oggi, di cui oggi noi parliamo e noi ne parliamo grazie all'insegnamento di Gesù. Noi non ci rendiamo conto tante volte quanto il cristianesimo abbia influito sulla mentalità che abbiamo oggi, cioè sulla mentalità, o meglio, che dovremmo avere, cioè il fatto di rispettare la dignità della persona umana dal concepimento fino alla morte naturale. Deriva proprio dal cristianesimo. Gesù che ha ri riabilitato, rivalutato sia le persone malate, sia le persone inferme, le persone deboli, ma anche e soprattutto i bambini. E dice: Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro infatti appartiene il regno dei cieli. Addirittura non solo Gesù permette ai bambini di avvicinarle e elogia i bambini, ma Gesù dice che a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Quindi come Gesù per venire a noi si è fatto bambino, si è fatto piccolo, così noi per poter giungere a Dio dobbiamo farci bambini, dobbiamo farci piccoli. A questo riguardo mi viene in mente la piccola via, l'esempio della piccola via di Santa Teresina del Bambino Gesù. Santa Teresina è stata una suora carmelitana vissuta in clausura che ha tracciato la cosiddetta piccola via per arrivare a Dio. Che cos'è? In che cosa consiste questa piccola via? Tante volte pensiamo che la piccola via significhi valorizzare le piccole cose di ogni momento, sì, anche questo è vero, cercare di fare anche piccole cose con un amore grande, fare cose ordinarie con un amore straordinario, ma la piccola via in sé per sé, l'insegnamento che ci ha voluto lasciare Santa Teresina circa la piccola via, consiste nello sprigionare una speranza e una fiducia illimitata nella misericordia del Signore, sapere che da soli non possiamo giungere a Dio, ma che Dio è giunto a noi. Quindi la piccola via significa il pieno abbandono, l'abbandono totale a Dio, sapere che Dio ci accoglie così come siamo. E quindi la piccola via vuol dire anche essere presi proprio dalle braccia di Gesù, portati da Lui. E la natura di Gesù è proprio quella di chinarsi verso tutto ciò che è piccolo, verso di noi, come ha fatto per questi bambini. E quando ci lasciamo attrarre dall'amore infinito, noi riusciamo veramente a unirci al Signore. Quindi non c'è niente che può separarci da Lui, nemmeno il nostro peccato. Quindi non facciamoci problemi, questo non vuol dire che dobbiamo continuare a peccare, ma nello stesso tempo dobbiamo dire: Signore, io mi rivolgo a te, Mi abbandono fiduciosamente in te, ho una piena fiducia nel tuo amore. E così facendo noi possiamo farci rialzare dal Signore, lasciarci amare da Lui. Questo vuol dire affidarsi e seguire la piccola via. Buona giornata.